Il libro di Enoch. Tradotto da Jeetz, dal professor Dillman, a cura di Charles 1893, 108 capitoli. Integrato con il libro dei segreti di Enoch, dall'italiano. Libro segreto sul rapimento di Enosh il Giusto. Traduttore sconosciuto. 73 capitoli. Sommario. Libro 1. Vigilanti. Libro 2. Tre parabole. Libro 3. Luminari. Libro 4. Visioni, o sogni, libro 5. Leyes, o settimana, libro 6. Diluvio. Libro 7. Nascita di Melchisedec. Nel libro segreto sul rapimento di Enosh il Giusto. Questo libro è il libro di Enoch. Nel nome di Dio. Il misericordioso, il grazioso, il lento all'ira, danno grande misericordia e santità. Possa la sua benedizione e il suo aiuto essere con colui che lo ama, nei secoli dei secoli. Amen. Sono la parola di benedizione di Enoch, come egli benedisse gli eletti ed i giusti che vivranno nel giorno della afflizione, quando tutti i malvagi ed i senza Dio saranno eliminati.